Focus Economia. Con Simone Spezia. Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, buonasera e benvenuti a questa nuova puntata di Focus Economia da Simone Spezia. I temi dei quali parleremo oggi? Beh, nella seconda parte della trasmissione, che come sapete in questa versione estiva dura solamente un'ora, dalle 17 alle 18, quindi intorno alle 17.40, 17.45, ci occuperemo di Grecia, perché oggi il Bundestag e il Parlamento tedesco, pur con una serie di defezioni all'interno del partito di Angela Merkel, ha dato il via libera al piano di salvataggio della Grecia. Non ci soffermeremo tanto su quello che è successo politicamente all'interno appunto del partito di Angela Merkel, all'interno del Parlamento tedesco, quanto cercheremo di capire se veramente questo piano di salvataggio basterà, perché c'è molto scetticismo intorno a questo, oppure se ci ritroveremo ancora una volta tra qualche mese a dover parlare di una crisi greca. Ci sono molti elementi che da tenere in considerazione, innanzitutto le riforme che la Grecia dovrà fare, l'efficacia di questo nuovo memorandum, di questa nuova lettera d'intenti, appunto l'efficacia che potrà avere sull'economia greca, anche perché ci sono alcune misure come le riforme strutturali pure semplici che, come sapete, hanno un impatto, lo raccontiamo spesso, non sul breve termine ma sul medio-lungo termine. Ci sono invece misure come l'aumento dell'imposizione fiscale, i tagli delle pensioni, che hanno un impatto subito e spesso hanno un impatto recessivo. Quindi da questo punto di vista c'è evidentemente un problema, così come dall'altra parte c'è tutta la questione del debito greco. Come sapete, il Fondo Monetario Internazionale, l'abbiamo raccontato molto spesso nei mesi scorsi, preme perché ci sia un taglio del debito greco. Oggi il ministro delle finanze tedesco, tra un attimo lo ascolteremo, Wolfgang Schäuble, in Parlamento ha detto no, un taglio no, siamo disponibili ad un alleggerimento, qualsiasi cosa questo voglia dire, e lo vedremo sicuramente nei prossimi mesi. Questo sarà uno dei nostri temi, ma il tema con il quale apriremo questa puntata di Focus Economia è un tema che è un po' sotto traccia in queste ore, ma nemmeno troppo, e riguarda il carburante, quello che mettiamo nelle nostre auto. Perché? Perché il petrolio continua a scendere. Considerate che oggi il WTI, con consegna a settembre, quello quotato a New York, perde il 3%, siamo a $41,3 al barile, se considerate che 3-4 anni fa eravamo intorno addirittura ai $100 al barile, e però la benzina non cala. Ci sono una serie di elementi che contribuiscono a questo, sicuramente l'aumento dell'imposizione fiscale che effettivamente c'è stato, l'unione petrolifera, ossia che raccoglie le compagnie petrolifere, si difende e dice attenzione, i prezzi sono più bassi rispetto alla media, abbiamo un'imposizione fiscale enorme, immagini per ridurre non sono tanti e comunque abbiamo ridotto. Dall'altra parte le associazioni di consumatori che dicono invece qualche margine c'è, a dir la verità non proprio enorme. Cercheremo di capire qualcosa di più di tutto questo. Ovviamente parleremo di mercati, mercati che oggi sono negativi, 1,5% per il FTSE MIB, 1,47% per il FTSE OSHARE, Francoforte che lascia sul terreno 2 punti percentuali, Parigi l'1,5%, Londra altrettanto, l'America anche negativa, meno 1,04%, lo Standard & Poor's sul Dow Jones, lo Standard & Poor's 500 cede quasi un punto percentuale. 349-238-6666 per i vostri SMS, le notizie in breve di oggi. Partiamo dalle materie prime. Come sempre il WTI si diceva in calo di 3 punti percentuali a $41,35 al barile. Per quanto riguarda il Brent, consegna ad ottobre un calo dell'1,6% a $48,02 al barile, quindi calo piuttosto forte anche da queste parti. L'oro a $1,127 l'oncia, un più 0,8%. chiudono in positivo invece oggi le borse cinesi: Shanghai più 1,2%, Shenzhen più 2,2%. È stata un'altra seduta di tensione in realtà, con i listini che sono arrivati a perdere circa il 5%. Che cosa è successo poi? Che la banca centrale cinese ha immesso liquidità sul mercato interbancario un po' più a lungo termine. Alle banche sono stati forniti 110 miliardi di yuan a 6 mesi. Si tratta di 17,2 miliardi di dollari, un'operazione analoga a quella avvenuta ieri, a 6 mesi, al tasso annuo del 3,35%. I timori sulla Cina invece hanno un impatto sulla borsa di Tokyo. L'indice Nikkei ha chiuso le contrattazioni con un meno 1,61%. Tra l'altro va bene l'export giapponese, ossia cresce del 7,6% in luglio, ma frena rispetto al più 9,5% di giugno. In termini di volumi c'è un calo, quindi in termini di valori, questi sono dati in termini di valori, in termini di volumi c'è un calo dello 0,7%. Pesa su questo rallentamento evidentemente la questione cinese, come abbiamo già ampiamente trattato ieri. Salgono i prezzi al consumo negli Stati Uniti dello 0,1%, aumento inferiore alle attese degli analisti. Forse anche questo dato fa dire al presidente della Fed di Minneapolis, Narayana Kocherlakota, spero di aver pronunciato bene, che alzare i tassi ora sarebbe un errore. Con un'inflazione così bassa, tassi più alti spingerebbero l'economia lontano dagli obiettivi della Fed per i prezzi e l'occupazione. Abbiamo parlato di Cina, ci sono altri mercati cosiddetti emergenti, ma ormai emersi, importanti, che stanno vivendo una fase di difficoltà. Il Brasile su tutti, che rientra nella fase di recessione tecnica che si verifica quando l'economia si contrae per 2 trimestri consecutivi. In base ai numeri, l'attività produttiva è calata dell'1,89% tra aprile e giugno di quest'anno, nel raffronto con i 3 mesi precedenti, quando registra un meno 0,2%. Di qui anche le proteste che ci sono state nel fine settimana contro Dilma Rousseff, accusata di corruzione, ma ovviamente su tutto questo pesa molto l'andamento dell'economia brasiliana. Tanto il governo ha deciso di venire incontro al settore automobilistico, uno dei più colpiti dall'attuale crisi. La banca statale Caixa Economica Federal concederà fino a 5 miliardi di reais, circa 1,5 miliardi di euro di credito con interessi più bassi per le case che si impegneranno a frenare le dimissioni, i licenziamenti collettivi. Mentre la cancelliera Angela Merkel è in visita in Brasile, dove questa sera vedrà proprio Dilma Rousseff. Magari domani una puntata, una parte della puntata, un accenno sul Brasile lo faremo. E c'è un altro paese emergente in difficoltà, è la Turchia di Recep Tayyip Erdogan, la quale va rapidamente verso nuove elezioni. E però presenta anche una serie di difficoltà. La lira turca ha perso il 15% da inizio anno fino a metà giugno, oggi ha preso un'altra botta, un calo dell'1,5%. Qualcuno beffardamente su Twitter faceva notare che da quando Erdogan ha detto una frase del genere «chi sta comprando dollari in questo momento si pentirà», la lira turca ha perso il 12%. L'Europa, con il Bundestag che approva con un'ampia maggioranza il terzo pacchetto di aiuti alla Grecia, 66 defezioni nel partito di Angela Merkel, 113 voti contrari, 18 gli astenuti e 454 favorevoli comunque. Schäuble dice: è un caso eccezionale, una decisione non facile, è imprescindibile che il Fondo Monetario Internazionale resti al tavolo, il taglio del debito, dice Schäuble, non è possibile. E nel discorso di presentazione, per così dire, ha detto ai parlamentari sarebbe irresponsabile non usare l'opportunità di un nuovo inizio per la Grecia. Sentiamo. Natürlich, liebe Kolleginnen und Kollegen, gibt es nach den... È naturale, cari colleghi e care colleghe, che alla luce dell'esperienza degli scorsi mesi e degli scorsi anni non ci possano essere garanzie assolute sul pieno funzionamento del piano, e dubitare è sempre consentito. Di contro c'è però il dato di fatto che il governo greco ha già messo in atto una parte importante dei provvedimenti. Per questo motivo sarebbe irresponsabile negare adesso alla Grecia l'opportunità di un nuovo inizio. Noi abbiamo dato alla Grecia la possibilità di tornare a camminare con le proprie gambe e di tornare alla crescita nei prossimi anni. La scelta di sfruttare questa opportunità spetta ora ai greci. La nostra responsabilità per l'Europa, per la solidarietà tra popoli europei nei confronti della Grecia, deve trovare però un equilibrio anche con la nostra responsabilità nei confronti dei contribuenti di quei paesi che ai salvataggi hanno contribuito. Siamo tutti uniti dalla consapevolezza che per vari motivi abbiamo bisogno di un'Europa più forte, di un'Europa capace di agire, e questo non può avvenire senza fiducia, senza solidarietà. Così Schäuble. L'Europa accoglie positivamente il voto del Bundestag, adesso attende l'ok dell'ISM, il meccanismo di salvataggio. Varoufakis, l'ex ministro delle finanze, parla in TV con una dichiarazione, a dire il vero, abbastanza contraddittoria, perché dice: non c'è alcun dubbio che Wolfgang Schäuble domini l'Eurogruppo. E ne è il re addirittura, dice. Però è frustrato perché, pur essendo il re dell'Eurogruppo, i cancellieri e i capi di Stato dell'Eurozona non sostengono necessariamente i suoi piani per l'Eurozona. E quindi, insomma, uno se fa il re, fa il re. Comanda e decide. Dice ancora Varoufakis che per realizzare il suo piano per l'Eurozona Schäuble ha bisogno dell'uscita della Grecia dall'euro. L'Italia, lo spread tra BTP e Bund è stabile dopo le prime contrattazioni, il differenziale a 115,9 punti, rendimento all'1,8%, Renzi parla alla Frankfurter Allgemeine Zeitung e dice: dobbiamo andare avanti, spingerò più che mai e sono ottimista in merito alle riforme. Un paio di notizie, anzi una notizia che arriva dalla CGA di Mestre: tra il 2010 e il 2015 una famiglia con quattro componenti che vive in una casa da 120 metri quadri ha subito un aumento del prelievo relativo all'asporto dei rifiuti del 25,5% in termini assoluti, ad un aggravio di 75 euro in media. Dovrà versare al proprio comune 368 euro di tari. Ci sono le parole del Papa, che ha parlato di lavoro, dice: il lavoro non sia ostaggio della logica del profitto. Sentiamo. Quando il lavoro si distacca dall'alleanza di Dio con l'uomo e la donna, quando si separa dalle loro qualità spirituali, quando è in ostaggio della logica del solo profitto e disprezza gli affetti della vita, l'avvilimento dell'anima contamina tutto. La vita civile si corrompe e l'habitat si guasta. E le conseguenze colpiscono soprattutto i più poveri e le famiglie più povere. Dice ancora il Papa: causare la perdita dei posti di lavoro significa causare un grave danno sociale. E ancora: sono rattristato quando vedo gente che non ha lavoro, che non trova lavoro, che non ha la dignità di portare il pane a casa. E noi invece di pane adesso parliamo di benzina. We'll be right back. po' di benzina, perché il tema è sul piatto da qualche giorno. Le associazioni di consumatori protestano. Abbiamo un prezzo del greggio, oggi un'altra bella botta, come si diceva. -2,8, -2,7 il WTI, quello quotato a New York con consegna a settembre, a $41.44 al barile, con il Brent che scende dell'1,86 a $47.9, quello del Mare del Nord, quotato a Londra. Ma si dice il prezzo della benzina non ha seguito la stessa dinamica e si fanno confronti soprattutto col 2009. Allora, oggi la Verde costa mediamente 1,563 euro al litro, mentre ad inizio 2009 il prezzo medio era di 1,136 euro al litro, con prezzi al greggio sostanzialmente paragonabili. Una differenza di prezzo di 42,7 centesimi al litro per il consumatore. Ci sono una serie di elementi, a partire dal fatto che nel frattempo le accise sono aumentate le tasse. Le accise erano a 56,4 centesimi al litro, oggi a 72,8, una bella mazzata. L'IVA da 18,9 centesimi nel 2009 a 28,2 oggi, perché l'aliquota è passata dal 20 al 22% e anche perché è più alto il prezzo di base. Però è salito anche il prezzo al netto delle imposte. Davide Tabarelli, presidente di Nomisma Energia, buonasera e benvenuto. Buonasera, grazie. Allora, come mai? Ma come avete detto voi, la grossa differenza sono le tasse, le accise più l'IVA, che è passata dal 18-22%, che si calcola anche sulle accise, fra l'altro, perciò questo è il grosso. Più abbiamo una sopravvalutazione della benzina sui mercati internazionali, il confronto, farlo col greggio è sbagliato, perché se noi mettiamo un barile di greggio nella nostra macchina non andiamo molto lontano, è come fare parlare di pizza fatta con le spighe di frumento. La benzina e il gasolio sono la parte nobile del barile fatto di altri 15-20 prodotti. Attualmente i prezzi sono di circa $150 sopravvalutati sul mercato internazionale. Normalmente il prezzo della benzina è superiore a quello del greggio del 20%, adesso è del 57% superiore. Questo come mai Tabarelli? Ce lo sa spiegare? Perché fa parte un po' delle dinamiche che ci sono nei mercati internazionali, la materia prima a volte si muove più velocemente, i prezzi dei prodotti più lentamente. E questa, la discesa che c'è stata degli ultimi 7 mesi del greggio è stata molto veloce, quella dei prodotti più lenta. Ma perché? Perché negli Stati Uniti c'è una buona domanda di benzina, in Europa abbiamo tagliato tutta la capacità di raffinazione, ultima qua in Italia, Marghera, Gela, Mantova, Cremona abbiamo chiuso, e in un momento in cui la domanda sta riprendendo di benzina. Dobbiamo ricordare però che 2/3 dei nostri consumi di carburante sono gasolio, e per il gasolio queste differenze sul prezzo internazionale non sono così accentuate, è solo la benzina che ha queste tensioni internazionali. Del resto questo è estremamente positivo per alcune società come la Saras, che gode di margini di raffinazione straordinari come mai visti in passato, dopo anni durante i quali invece il prezzo della benzina era depresso rispetto al greggio. Quando era $110 per barile, il prezzo della benzina era molto più basso. In sostanza, di quei 40 e oltre centesimi di differenza che c'è rispetto al 2009, almeno 10 centesimi sono dovuti a questa tensione del prezzo internazionale della benzina. Qualche margine di limatura, secondo lei, sì, da parte, certo, delle compagnie petrolifere ci sarebbe? I consumatori parlano di, addirittura i consumatori, che di solito sono molto battaglieri su questo, parlano in realtà di appena 9 centesimi al litro. Ma in realtà noi li vediamo meno, perché noi facciamo una cosa molto semplice, prendiamo il prezzo internazionale della benzina, ci mettiamo sopra le tasse, è un margine storico di distribuzione, copertura dei costi di trasporto, di stoccaggio e di pubblicità, e arriviamo a un prezzo che è il prezzo ottimale, così lo chiamiamo, che è inferiore di 3-4 centesimi. Perciò questo è lo spazio che c'è nei prossimi giorni di ulteriore calo. Questo per quanto riguarda, come dire, l'argomento benzina. Tra l'altro c'è anche, come si diceva, oltre al comunicato classico dei consumatori che chiedono un intervento dell'esecutivo, e questa è una cosa, qualcuno ci scrive paghiamo ancora l'accisa per la guerra in Abissinia, avete perfettamente ragione, però più che segnalarla costantemente questa cosa noi non possiamo fare, evidentemente è una fonte di ingresso irrinunciabile, di entrata irrinunciabile per lo Stato e non se ne riesce ad uscire fuori, e anzi è la prima cosa, come sapete, come abbiamo visto in questi anni, si parla del raffronto del 2009, dal 2009 al 2015, è la prima fonte in realtà alla quale lo Stato si rivolge quando vuole evidentemente delle entrate sicure. Come dicevo, c'è la posizione dei consumatori, c'è anche la posizione dell'Unione Petrolifera che dice che il prezzo della benzina rispetto a un anno fa è attualmente inferiore di 18 centesimi e mezzo di euro al litro, mentre quello, il prezzo del gasolio è di 22,6 centesimi al litro, e ricorda ancora questa questione delle tasse, dice ogni confronto con il 2009 è improprio, considerando appunto che la tassazione è cresciuta tra i 25 e i 30 centesimi di euro al litro. A livello di scenario più generale, Tabarelli, già che ce l'abbiamo in linea, abbiamo visto un nuovo calo oggi nel prezzo del greggio, piuttosto forte, soprattutto negli Stati Uniti. Qualche analista si è spinto a sostenere che si potrebbe arrivare ai 20 dollari al barile addirittura. Lei che dice? Ma prima di tutto che l'unica cosa certa nel mercato del petrolio è l'instabilità dei prezzi. 15 anni fa i prezzi erano intorno ai 10-15 dollari, c'è un minimo nel 98 inferiore agli 8 dollari. Pertanto è normale che ci siano queste oscillazioni. 40 dollari, 45, gli attuali prezzi sono già molto bassi. Ricordo che nel Medio Oriente i costi di produzione però sono 10 dollari. C'è questa forte competizione nel Medio Oriente dove sta tornando l'Iran. L'Iraq è tornato ai livelli di produzione prima che non si vedevano dal 79. C'è l'Arabia Saudita che non vuole fare posto all'Iran e perciò sta spingendo ai massimi di 12 milioni di barili al giorno. Poi ci sono gli Stati Uniti con la loro rivoluzione del fracking, dove la caduta dei prezzi non ha tagliato fuori i produttori, la produzione continua a arrivare verso salire e presto raggiungerà il massimo del 1970 vicino ai 10 milioni di barili al giorno, cioè c'è tantissima offerta in questo momento, però la domanda mondiale continua a crescere quella benzina che fra l'altro tiene altri prezzi di cui parlavamo prima, perché ogni anno la domanda mondiale di petrolio cresce di 1,5 milioni, cioè è più il 50% in più della domanda intera dell'Italia in un anno, la produzione della Libia in condizioni normali, cioè c'è un mercato del petrolio che comunque cresce in questo istante, in questo periodo, in quest'anno, per nostra fortuna, fortuna dei consumatori, è più offerta. Pertanto gli scenari sono quelli che siamo vicini dei minimi, pensare che scenda ancora è abbastanza improbabile. Tuttavia noi prevediamo dei prezzi che rimarranno su questi livelli 50 con un po' di ripresa verso i 60 per molto tempo, perciò prezzi molto molto deboli e livelli di 100 che conoscevamo un anno fa non li vedremo per molto tempo. Mi scusi ancora Tabarelli, perché poi ovviamente abbiamo scatenato gli ascoltatori tra quelli che ci accusano, come dire, di essere al soldo delle compagnie petrolifere, però qua io devo dire, se le stesse associazioni di consumatori, che ripeto non è che siano particolarmente gentili di solito o accondiscendenti con le compagnie petrolifere, parlano di margini di riduzione di 9 centesimi al litro, sinceramente io non so che cosa dire. A tutti gli effetti quello che abbiamo visto in termini di incremento fiscale è stato potentissimo e ce lo ricordiamo tutti e ci ricordiamo anche in quale periodo è avvenuto. Qualcuno ci dice balle, in Francia il gasolio costa molto meno, ma anche là c'è una questione fiscale, no? Ma certo, le tasse in Francia sono 20-30 centesimi in meno su benzina e gasolio come il resto d'Europa. Noi abbiamo la tassazione sui prodotti petroliferi più alta d'Europa, pertanto non è che possiamo lamentarci, se dobbiamo fare i confronti sempre al netto della tassazione. Lo strumento più facile per fare cassa per lo Stato è sempre stata la benzina, dall'Abissinia, poi dopo l'Abissinia è stata esclusa, quei soldi lì li hanno dirottati su altri capitoli di spesa. Noi abbiamo una spesa infinita in questo paese che deve essere finanziata. La cosa più veloce è la benzina, perché siamo anche il paese più motorizzato al mondo, se teniamo conto dei motorini, oltre alle macchine. Pertanto è una domanda che fino a poco fa era rigida, adesso è crollata perché a forza di dai e dai ovviamente anche il prezzo comincia a picchiare sui consumi. Però nel resto d'Europa i prezzi sono molto più bassi, da cui si è scatenato fra l'altro un problema di cui i consumatori, quelli soprattutto arrabbiati, dovrebbero stare molto più attenti, quello della contraffazione, quella dell'evasione, quella dell'illecito. Si stima che in termini cautelativi sia il 10% di tutta questa roba, perché più si aumentano le tasse, perciò più si aumenta il valore di un bene, più aumenta la propensione a fare delle cose al mercato nero, diciamo. Esatto, così, insomma, esatto. per essere brutali. Tra l'altro ci scrive un ascoltatore: in Liguria paghiamo in più anche le accise sulla benzina per l'alluvione del 2011. Come vedete, è la dimostrazione che appunto lo Stato, quando ha bisogno, si mette a far cassa là. Un ascoltatore ci scrive, ed è l'ultima domanda che le faccio, Tabarelli, dice: ma come mai il metano non cala? I prezzi del gas e del greggio spesso sono collegati, o mi ricordo male io? Sì, sono collegati, ma con molta distanza. Adesso in Europa si è sviluppato un mercato spot del gas, perciò sono più autonomi. Il prezzo del gas si muove in maniera molto più lenta e rigida, e nei prossimi mesi dovremo vedere qualche calo, ma però non erano aumentati negli anni scorsi i prezzi come invece erano aumentati quelli dei carburanti tradizionali, benzina e gasolio. La ringrazio, grazie a Davide Tabarelli, grazie, presidente di Nomisma Energia, le auguro una buona giornata. Noi ci fermiamo, ci ritroviamo tra un attimo per parlare di mercati e di una brutta giornata con il FTSE MIB che chiude con un calo dell'1,7%, il FTSE share dell'1,66%, negative tutte le borse europee, Francoforte lascia sul terreno oltre 2 punti percentuali, a tra poco. Focus Economia. Eccoci di nuovo, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, 349-238-6666 per i vostri sms, per parlare di mercati. Brutta giornata, si diceva, meno 1,7% il FTSE MIB, meno 1,6% il FTSE All Share, Parigi giù dell'1,7%, Francoforte del 2,1%, il Dow Jones sta peggiorando in questi minuti, c'è dell'1,25%, lo Standard & Poor's l'1,18%. Andrea Fontana, Radio Cori, Il Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Allora, si diceva giornata negativa, qualcuno parla di una correzione, bisogna vedere quanto è lunga questa correzione. Sì, è proprio questo l'interrogativo degli operatori, stiamo assistendo a uno storno, una fase di storno che può essere messa tra le fasi fisiologiche dell'andamento dei mercati o diciamo c'è un cambio di gioco, un'inversione di tendenza più significativa indotta innanzitutto dalle preoccupazioni per il mercato, per l'economia cinese. Di fatto abbiamo visto Francoforte tornare ai minimi da febbraio, Parigi e Londra ai minimi da un mese, cioè dalla fase più delicata della crisi greca, Piazza Affari scende sotto i 23.000 punti di FTSE MIB con una correzione significativa guidata da petrolio, guidata da molti industriali e dal lusso. Abbiamo parlato poco fa, anzi fino a poco fa appunto, di prezzo del greggio, dell'impatto che ha sulla benzina, ovviamente ha un impatto anche sulle quotazioni di titoli petroliferi, no Andrea? Sicuramente per motivi diversi, innanzitutto per i petroliferi propriamente detti come Eni, che oggi ha perso il 3%, è sceso sotto 15 euro, ma anche gli altri big del petrolio hanno pagato pesantemente in borsa, Total ha perso quasi il 2% e invece anche i titoli quotati a Londra hanno perso pesantemente, Tullole ha perso il 5%, ma poi anche per le società che si occupano di servizi per il settore petrolifero come Saipem, come Tenaris, che spesso in queste sedute abbiamo visto come più penalizzate. Oggi Saipem ha perso l'1%, quindi meno dell'indice, Tenaris ha perso il 2,3%, quindi facendo anche peggio del FTSE MIB. Sì, peggio peggio dell'indice, appunto. Per quanto riguarda invece i titoli in positivo, praticamente sono, a parte World Duty Free che guadagna lo 0,10%, sono quasi tutte popolari, Banco Popolare, mezzo punto percentuale di guadagno, così come UBI Banca, Popolare Emilia Romagna più 0,4, Popolare Milano più 0,10. Sì, per quanto riguarda World Duty Free, diciamo la tenuta è legata al fatto che qui c'è un'offerta pubblica d'acquisto in arrivo da parte della Svizzera Dufry a 10,25 euro per azione, quindi il titolo resta ancorato intorno a quel valore. Le popolari invece oggi hanno un po' riscoperto la questione consolidamento, proprio il Sole 24 Ore oggi torna a parlare delle trattative e delle ipotesi di fusione tra questi istituti che la riforma varata dal governo nella prima parte dell'anno sta guidando verso delle alleanze, e i titoli migliori oggi sono quelli di cui si parla appunto per alleanze. Banco Popolare e UBI, che hanno guadagnato mezzo punto percentuale, sono proprio indicati come i più probabili protagonisti di questo, ma anche la BPER che guadagna lo 0,4% insieme alla Popolare di Milano. Tra gli istituti molto bene anche Carige, ha guadagnato il 3,6%, pur non essendo una popolare. Si parla del gruppo Ligure come possibile alleato della Popolare di Milano, vedremo se queste trattative porteranno a fusione di questo tipo. Autogrill meno 0,3%, Jux meno 0,3%, Ansaldo STS meno 0,37%, tra i bancari ancora Monte dei Paschi c'è dello 0,4%, tra gli industriali Giuffi Meccanica dello 0,48%, negativa anche Pirelli che c'è dello 0,73%, abbiamo giù Prismian del 3,8% e complessivamente il lusso Ferragamo meno 3,09% e negativa anche Moncler alla fine, Andrea, no? Sì, è tornata una giornata molto negativa per il lusso. Abbiamo visto che da quando, diciamo così, si è un po' scatenata la questione cinese legata alla svalutazione dello yuan, i titoli non hanno mai saputo ben recuperare terreno anche nei giorni, diciamo, un po' più tranquilli delle borse. Oggi una giornata negativa, il tema Cina resta forte, anche se è difficile da decifrare da parte degli operatori. Oggi Shanghai alla fine ha condotto una seduta che da un forte calo ha poi recuperato. Ferragamo ha perso il 3%, Tots il 3%, molti operatori fanno i calcoli di quali sono i titoli più esposti del lusso verso la Cina e poi finiscono appunto per vendere a piene mani su questi titoli, che peraltro da inizio anno hanno realizzato le ottime performance. Ferragamo sta ancora più 33% da inizio anno. Non è legata a tutto questo invece la vicenda Luxottica, o almeno non completamente, cioè del 2,75%. No, diciamo che il rischio per Luxottica è legato a una indagine dell'antitrust francese su presunte attività lesive della concorrenza. Questo rischio viene indicato anche nella relazione semestrale del gruppo, dove non si riesce a quantificare quella che può essere, diciamo, un possibile impatto di una multa ancora eventuale in questa fase, ma si parla di un contenzioso che potrebbe portare a delle perdite, insomma un impatto potenzialmente significativo nel numero del gruppo, e quindi questa incertezza ha fatto sì che il mercato oggi alleggerisse le posizioni su Luxottica. Infine, innanzitutto la giornata negativa per tutto il settore dell'automotive, tanto è vero che Fiat Chrysler c'è del 2,6% e anche CNH continua ad essere negativa, meno 2,7%. Andrea? Sì, il settore è molto penalizzato, diciamo la galassia Fiat Agnelli, Fiat Exor in questa fase sta soffrendo molto. CNH perché il settore dei macchinari agricoli, in particolare per l'andamento del settore negli Stati Uniti, non viene ben visto dagli operatori, quindi questi titoli vengono molto venduti. Fiat anche sta soffrendo la fase negativa dati del settore auto, oggi il settore auto ha perso il 2,5% come indice europeo, è stato secondo solo a quello dei minerari in Europa. Oggi abbiamo assistito a una correzione anche da parte della casa madre, cioè di Exor, che invece negli ultimi giorni aveva saputo ben tenere, vuoi legato alla PIL per l'investimento nell'Economist e vuoi anche per il successo nell'operazione del riassicuratore, di acquisto del riassicuratore americano Partner Re, aveva ben tenuto, invece oggi i realizzi sono scattati anche su Exor e poi sono portati dietro CNH e Fiat Chrysler. Ultima che ti voglio chiedere è Prelios, della quale abbiamo già parlato ieri, oggi un più 6,2%, ieri un più 20%, addirittura qua ancora il tema del riassetto, l'ex Pirelli Real Estate, come ci ricordava qualche ascoltatore ieri, l'immobiliare della galassia Pirelli. Andrea. Sì, è un balzo forse anche un po' ingiustificato, cioè sicuramente basato su una forte speculazione, perché i nomi che sono circolati di possibili big interessati al riassetto del gruppo, a partecipare al riassetto del gruppo, sono sicuramente altisonanti, sono altisonanti e quindi hanno acceso la speculazione soprattutto nella giornata di oggi, di ieri e anche in quella di oggi, riportando il titolo ai valori di maggio, ma sicuramente insomma il gruppo deve attraversare ancora una fase di ristrutturazione importante, c'è una ricapitalizzazione da quasi 70 milioni di euro da fare, c'è una separazione delle attività immobiliari da quelle prettamente di servizi per il settore immobiliare, quindi non sembra così vicino questo investimento, il mercato però insomma ci crede molto e quindi ha investito sia ieri che oggi. Grazie Andrea Fontana di Radio Corre il Sole 24 Ore, i colleghi di Radio Corre il Sole 24 Ore, noi ci fermiamo, c'è il traffico, poi ci ritroviamo per parlare di Grecia. Focus Economia. Eccoci, il Bundestag tedesco ha approvato oggi con un'ampia maggioranza il terzo pacchetto di aiuti alla Grecia, si prevede un ammontare di 86 miliardi di euro, lo ricordiamo, dallo spoglio emerso che hanno votato a favore degli 86 miliardi per la Grecia 454 deputati tedeschi, 113 voti contrari, 18 gli astenuti, di questi 113, 66, o meglio, di questi 63 deputati della CDU-CSU, il partito di fatto di Angela Merkel, hanno votato contro, 3 si sono astenuti, 17 gli assenti. Il numero di dissidenti è maggiore del previsto. Al Bundestag si fanno una sorta di prova generale sui voti importanti e ieri nella prova generale in 56 avevano annunciato voto contrario. Saluto Mario Seminerio, che è autore del blog fastidio.net ed è anche ospite fisso e partecipante ai Conti della Belva il sabato mattina con Oscar Giannino. Seminerio, buonasera. Buonasera. Allora, con lei per parlare non tanto di quello che ha deciso la Germania, tra l'altro magari parleremo invece delle parole che ha detto Wolfgang Schäuble, ma quanto per avere un quadro più complessivo di quello che potremmo attenderci nei prossimi mesi. 86 miliardi di euro per il salvataggio della Grecia, un nuovo memorandum, di una nuova lettera con delle riforme che la Grecia deve mettere in atto, alcune che hanno effetti, come già si diceva in apertura, essendo riforme strutturali a medio-lungo termine, e altre, quelle forse un po' più recessive, Seminerio, che invece hanno effetto a brevissimo termine, no? Sì, sono misure molto molto simili a quelle che abbiamo visto, diciamo, negli ultimi 5 anni almeno, in tutti i memorandum che si sono succeduti, nei due principali ovviamente. Sono misure che nel breve termine con altissima probabilità saranno pesantemente recessive, temo che ci sarà una ripetizione di quanto visto in passato, no? Basta fare l'esempio della riforma della tassazione degli imprenditori agricoli, prima c'era una aliquota del 13% applicata in maniera estremamente lasca e diciamo sportiva, nel senso che c'erano numerosi cittadini greci che rivendicavano il titolo di coltivatore senza esserlo, adesso questa aliquota viene praticamente raddoppiata e si chiede di pagare con decorrenza 2014, quindi retroattivamente al maggior livello, e per il 2015 anticipatamente. Quindi il tutto in un paese che ha una pubblica amministrazione che è in condizioni assolutamente disastrate e disastrose e che finora negli ultimi anni si è dimostrata assolutamente impermeabile alle riforme, in un contesto di liquidità che è quello che è, cioè praticamente una liquidità drammaticamente scarsa e insufficiente per gli effetti ancora dei controlli sui capitali, per cui il rischio che ci sia un ulteriore avvitamento è veramente alto, e quindi stiamo a vedere. Senta Seminario, tra l'altro questo aumento delle tasse arriva in un paese che ha ancora una certa difficoltà per essere gentili nell'esazione delle tasse medesime. Sì, assolutamente. Il problema della Grecia, come ho evidenziato più volte, ma non solo io, diciamo, è sotto gli occhi di tutti, è che la Grecia necessita di un'operazione che io definirei di nation building, nel senso che è un paese che va ricostruito dalle fondamenta. Quindi se queste cose non le fanno i cittadini, che si danno un ordine di priorità e si danno un progetto per il futuro, auspicabilmente senza trovarsi con l'acqua alla gola, è impossibile pensare che queste cose le facciano delle truppe di occupazione, dove truppe di occupazione ovviamente va messo tra virgolette. D'altro canto, da qualche parte bisognerà iniziare, perché senza una pubblica amministrazione efficiente e senza una soluzione al problema del nero, dell'economia sommersa e informale, che in Grecia è assolutamente coessenziale allo Stato stesso, non se ne esce. Per cui è veramente, la Grecia rischia di essere una realtà irriformabile in un contesto di misure di riforma che si dimostrano tossiche, e tuttavia non ci sono reali alternative, perché bisognerebbe essere molto chiari anche su questo, cioè chiunque pensi che esistano delle terapie miracolose del tipo il ritorno alla dracma o altre sciocchezze del genere farebbe bene a evitare di prendere in giro se stesso e i propri ascoltatori e i propri referenti, perché la Grecia è un paese che ha un settore di esportazione che è pressoché inesistente, quindi questo è l'ennesimo disastro in un paese di assoluta peculiarità. Quindi un paese che insiste ad essere premoderno e con strutture statuali che restano tali. E il punto è proprio quello che si diceva, Seminario, cioè se le misure richieste nell'immediato, no, per esigenze finanziarie sono delle misure fondamentalmente recessive, invece le misure di riforma, per esempio della pubblica amministrazione o del sistema di esazione fiscale o del sistema di lotta all'evasione fiscale, sono in realtà riforme che richiedono, come ben sappiamo, dei tempi mediamente più lunghi. Quindi il rischio è l'avvitamento nell'immediato e l'impossibilità di portare a termine in realtà le riforme richieste per eventuali e nuove tensioni sociali. Esatto, c'è una fondamentale asimmetria, infatti, tra i tempi di realizzazione dell'eventuale beneficio e gli oneri che sono nell'immediato. Se la situazione dovesse ulteriormente peggiorare, e peggiorerà sicuramente in termini di metriche, dei livelli di attività, eccetera, non solo riprenderanno voce e corpo tutti quelli che all'interno della Grecia si oppongono ai memorandum e a questo tipo di trattamento, ma riprenderanno voce anche tutti quelli che in Germania si oppongono a continuare a versare soldi alla Grecia, in questa che sta diventando un'unione di trasferimenti. Per cui c'è una fatica dell'austerità e dei salvataggi che è tanto nel paese debitore quanto nei paesi creditori. Poi naturalmente si può anche parlare, no, di queste teorie abbastanza bizzarre di Schäuble, no, relativamente alla riduzione dello stock di debito. Ecco, questo è un tema, adesso ci arriviamo, intanto mi fa sorridere Paolo che nel sentirla parlare evidentemente di un paese che si ostina ad essere premoderno ci dice, scusi, state parlando della Grecia o dell'Italia? La battuta non è male, la prendiamo. prendiamo come tale, evidentemente. Si diceva di Schäuble, Schäuble oggi in Parlamento ha detto che la Grecia, la decisione sulla Grecia, l'ha detto ai parlamentari, è una decisione non facile ed è giustamente stata molto discussa, che, che il taglio del debito non è possibile, ma è possibile un alleggerimento senza taglio, e che è imprescindibile che il Fondo Monetario Internazionale resti al tavolo. Tra l'altro qua c'è un tema di fondo, perché il Fondo Monetario Internazionale in realtà vorrebbe un taglio del debito greco. Secondo lei come andrà a finire? Il Fondo Monetario Internazionale vuole un taglio del debito greco che il fondo non possiede, nel senso che vuole che a pagare questo taglio siano la Banca Centrale Europea e l'Unione Europea, perché essendo il Fondo Monetario Internazionale il creditore sovraordinato a chiunque altro sulla Terra, loro cercano di tutelare il proprio credito elargito con assoluta larghezza negli ultimi anni, e adesso qualcuno, diciamo di nome Christine Lagarde, sta cominciando a entrare un po' in panico. Per quanto riguarda invece la teoria di Schäuble, a me fa molto sorridere, no? Schäuble dice, e ha detto, e continua per certi aspetti a dire sotto traccia, sì, sono assolutamente convinto che serva un haircut, cioè proprio un taglio del valore facciale e nominale del debito greco, però non si può fare stando dentro l'eurozona con l'attuale struttura dei trattati. Per contro, se la Grecia uscisse, cioè se ridenominasse e uscisse dall'eurozona, noi creditori potremmo esercitare questa gentile concessione e tagliare il valore facciale del debito. Ora, questo dà la misura di tutta la follia ragionieristica che è non solo intrinseca nei trattati europei, e peraltro non è scritto da nessuna parte quello che Schäuble afferma. Non è scritto da nessuna parte, ma dà anche la misura del fatto che evidentemente qui non si riesce a capire qual è il concetto di valore attuale netto di un debito, perché se per i tedeschi il valore nominale deve restare invariato, ma al contempo il debito viene portato a 100 anni con tassi di interesse allo 0,01, questo è accettabile, mentre non è accettabile ridurne il valore facciale. Questo è un aspetto surreale e grottesco che deriva da un'interpretazione assolutamente ossessiva di un trattato che neppure comprende questa ipotesi esplicitamente. È difficile darle torto su questo fronte. Ci scrive Marco da Treviso: i greci hanno votato l'uscita all'euro. Non è vero, i greci non hanno votato l'uscita dall'euro, hanno votato un'altra cosa, sono andati al voto su un'ipotesi di accordo che tra l'altro non era nemmeno quella che più era sul tavolo, ma era una precedente, perché poi ne è arrivata una successiva subito prima che appunto Tsipras decidesse di convocare il referendum. Non hanno votato sull'uscita dall'euro, chiariamolo questo, perché su questo devo dire si è fatta anche un po' di propaganda anche dall'altra parte, anche da chi voleva che i greci votassero sì all'accordo, cioè molti anche politici stranieri hanno detto sarebbe un voto che li porterebbe all'uscita dall'euro. I greci non hanno votato per l'uscita dall'euro. Infine, Seminerio, brevemente, perché abbiamo ancora poco, gli 86 miliardi basteranno secondo lei o ci ritroveremo a gestire, come dire, un altro piano di salvataggio? Questa è una domanda da 86 miliardi di euro, diciamo, per cui credo che nel breve ci illuderemo che possano bastare, dopodiché arriveremo ad allungare ulteriormente i termini della questione. Penso che avremo probabilmente, come dire, forse un anno, forse tre o quattro trimestri di quiete relativa, tutto però facendo attenzione a quello che succede in altri quadri macroeconomici, perché se la Cina comincia a dare segni di cedimento è evidente che l'Europa a sua volta finisce male, e poi il problema non sarà solo la Grecia, ma sarà una pluralità di altri problemi, tra cui uno che comincia per I e finisce per Talia. Inizia per I e finisce per Talia. Grazie Mario Seminerio, autore del blog fastidio.net, ospite fisso dei conti della belva del nostro Oscar Giannino il sabato mattina. Siamo quasi in chiusura, vi ricordo che sul Sole 24 Ore domani trovate la guida per una gestione ottimale del portafoglio d'autunno, l'estate con il tuo amico Sole, sulle pagine della guida di domani, focus su come gestire la propria liquidità e investire a costi contenuti. I ringraziamenti: Barbara Bianchi e Benjamin De Zuliani in redazione, Roberta Frisani in regia, tutti voi come sempre per l'ascolto. Ci si sente domani dopo il GR delle 17:00.